Scene di allegria dionisiaca si ripetono in ogni manifestazione del genere. In un angolo appartato, gli alpini, reduci da una adunata nazionale a Trieste, consigliano a tener d'occhio gli osti annacquatori. In un altro angolo c'è chi, prendendo a braccetto i poeti del Friuli, ne ripete i versi, interrompendosi con vigorose sorsate, punti fermi ai singoli brani poetici. Intorno al dicitore, la brigata assisa sull'erba in ascolto. Di Antonio Bauzon. La fieste da Spogliespui si prepara un ciadin di cudumar sin salate, un vot pagnuz, une fertae ben fate che mulisite talardiel su vacare. Po si fa spuartadonge de fantate un dopli di nostran, e io partiare si pogni si in ombrene, e no si sgare, ale sicur che l'allegrie non stiate. Di Giovanni Lorenzoni. Oce biel chiantavi notis dongiel fuc tesnioz d'un viar, bevi vin, mangia balottis, ben le sadis talorar. Di Enrico Fruc. C'è delizie un rab di blance la mattina in som d'alort, e la sera un rab di nere sot la piargule de cort. Nos riguarda i viei di chiase, ch'est puiul cula sovit, benedez che nos lasarin la quiete di ch'est si. Di Pietro Zolutti. Che gotute a gustae a cene e mi va par ogni vene. Se mi mancie che gotute, io parbio me la viot brute. Di Hermes di Coloredo. Lu dolce mi lens e lu recent mi ponz. Lu boscatel mi imbalsam el palat, mi sborfe iubudiei, mi torna il flat. Quest'anno la sagra di Casarsa si è conclusa col Brüderschaft, caro ai vicini d'Oltralpe, invitati, bandisti, coristi e danzatori, a renderla più attraente, in gara di esibizioni e di bevute ristoratrici con i gruppi nostrani. Friedrichshaft, fraternità di cuori. Ai motivi carinziani si uniscono i motivi friulani. Perché no? L'Europa nuova in cammino, dopo tante sventure e delusioni, pronubo il vin della delizie. Ispiratore di canto, esso possiede anche la virtù di renderci migliori, di render sani e prolifici i casarsesi. A Casarsa 40 famiglie con 7 o più figli sono esonerate dalle tasse. Nessun cittadino di Casarsa popola i manicomi. C'è tan bon quanca le bon. Sospira un nostro poeta. El surferstand des lampe. Olio per la lampada dell'intelletto. Goldgeist. Spirito d'oro. Herzblut. Sangue del cuore. Lo proclamano i poeti tedeschi, sull'esempio di altri confratelli, che in ogni secolo e sotto ogni latitudine dedicarono al vino versi famosi. Poiché, e ne sia ringraziato il buon Dio, non è ancora apparso ad intristire l'umana esistenza il poeta del caffè latte e delle acque minerali. Walzer, maestro! Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, sagra del vino a Casarsa, 21esima trasmissione dedicata agli emigrati, testo di Chino Ermacora, musiche di Albano Bianchet e di Luigi Garzoni di Adorniano, musiche popolari.